serata devasto. Vasto il quartiere in cui passo la nottata. Giusto il tempo di una cena con gli amici o usciti, mentre io studio il planning dei locali, che poi tasto il tasto del controllo. Non perdo l'inibizione se nasce una discussione. Certo cedo la ragione, non ho fatto un corso di dizione, ma grazie al rischio corso di finire in prigione non rischio la ragione. Ragionamento su ogni evenienza dà evidenza la situazione. Qualche ubriaco mi punta il dito e tra le persone mi evidenzia la disoccupazione grava. Io assunto dal personale ed è decisione personale come prendere al fantacalcio grava. Lo fai se non hai scelta. Io non sono il PR della discoteca prescelta. È una teca tipo vaso di Pandora. D'ora in ora del turno di notte in urbe del netto e vino notturno. Rispetto alla società servo molto più di altri. Rispetto alla società ma conservo meno degli altri. La mattina torno a casa e se non ho un credito io sono conscio che il mondo è meglio per merito mio. Giornalisti pagati per dire un cazzo. Musicisti pagati per dire cazzo. Lo stipendio non è tutto, rendo il tutto più pulito. E se non ci fossi io crollerebbe il vostro rito. Anche festaiolo mi guarda come fossi un rifiuto umano. Sembro eretico come Ario al concilio di Nicea. Io rifiuto monnezza e concilio la mia nomea. E se rifiuto raccolgo rifiuto urbano tipo il Cairo. Calo il sipario, chiedo ti basi sulla differenziata. Non fallo un'auto senza differenziale. Non hai le basi per spostarti. Io differenzio tra l'esaltato e lo schiavizzato come Terenzio. Pensa che boh, un tale mi deride ed è lo stesso che poi ride. Senti Vuce in bon, pensa. Il divertimento qua è possibile grazie a gente invisibile come post lifting il sottomento. Io sottopagato sotto banco, sotto le decisioni di un capo soggiogato perché vince sempre il banco. Avrei preferito fare la puttana, almeno stavo sotto, ma invece di scopare venivo scopato. Rispetto alla società servo molto più di altri. Rispetto alla società ma conservo meno degli altri. La mattina torno a casa e se non ho un credito io sono conscio che il mondo è meglio per merito mio. Giornalisti pagati per dire un cazzo. Musicisti pagati per dire cazzo. Lo stipendio non è tutto, rendo il tutto più pulito. E se non ci fossi io crollerebbe il vostro mitologia. Come gli sfigati per straguadagno, come l'aquila morente tipo Zeus in metamorfosi. Frase netta, lui mi chiama nettezza, ma l'unica cosa netta sono i 4 ore che guadagno. Sorgo tra i vicoli un porco, sembra abbia gli intenti del gordo con la squalise. In bordo sessuale, questo la vuole ingroppare. Mollo tutto e mollo un pugno da paresi facciale. Tipo Bell, ben vestito, io vestito per guadagnare. Che intorno fa intende, non si limita a guardare. Rissa generale, salgono i decibel. Si attende solo l'arrivo del generale che metta ordine con ordine. Arriva l'ordine di manganellare. Rissa ferma e vai via, in questo via vai. In caserma Manganelli non dà il foglio di via. Qua finisce a Manganelli nel culo come alla Diaz. Rispetto alla società Manganelli nel culo come alla Diaz. Servo molto più di altri. Rispetto alla società Manganelli nel culo come alla Diaz. Ma son servo meno degli altri. Giornalisti pagati per dire un cazzo. Musicisti pagati per dire cazzo. In caserma Manganelli non dà il foglio di via. Qua finisce a Manganelli nel culo come alla Diaz. Coso? Vuoi stare seduto lì tutto il giorno per ringraziare il Neturbino? Sì, l'ho aggiunto nello scadenzario degli abbracci. Aspetti con me? No, dovrei essere di guardia già da un po'. Questa storia mi ha fatto riflettere sul concetto di gratitudine. Forse alla fine, che tu sia un medico oppure un Neturbino... Dorian? Ma che cosa fa? Mi scusi, certe volte mi piace tirare un po' le somme. Beh, lasci che sia io a riassumere. Il medico che lo aveva in cura stava ringraziando un Neturbino.